se sul giornale leggiamo l'inserto pubblicitario di qualcuno che dice non ci trovate negli ospedali, preferiamo farci scegliere per la qualità del nostro servizio, e se questo qualcuno poi si firma come impresa di onoranze funebri, non ci poniamo grandi problemi. Le cose al mondo sono andate in modo tale che in un ospedale sia del tutto ovvio incontrarci non tanto chi si occupa della tua salute, ma chi provvede alla tua sepoltura. È un implicito largamente condiviso che negli ospedali si rischi e ci si lasci la pelle. Fin qui tutto bene, no? Almeno dal punto di vista della comprensione. Se trovo una notizia come quella concernente i calvi, categoria che notoriamente mi sta molto a cuore, concernente i calvi che sarebbero molto più predisposti all'infarto dei pelosi, posso finire in qualche problema se me ne chiedessi il perché. Dovrò fidarmi alla scienza. Dati e ipotesi alla mano, sarò costretto a credere che la correlazione sia comprensibile alla luce della malvagia azione del colesterolo, che risulterebbe micidiale e per il pelo e per le arterie. Più o meno è come la questione della crisi dei garofani. Non so se avete presente il problema della crisi dei garofani, lì non sarà la biologia, ma un certo tipo di scienza una risposta te la dà. Dal 1980 in poi nel nostro paese è crollata la vendita dei garofani. Per capirne il perché occorre l'intervento di uno storico della mutua e di un sociologo del costume. Lo storico ci dice che fra il 1978 e il 1984 dal simbolo del Partito Socialista Italiano sono spariti la falce, il martello e, forse per via dell'effetto serra, il sole dell'avvenire. Il loro posto è stato gradualmente rimpiazzato da un garofano sempre più invadente. Orbene, a questo punto il sociologo del costume completa la spiegazione dicendoci che nessuno in questo paese, dove pur di regali se ne facevano tanti e di tutti i tipi, nessuno regalava più garofani. I non socialisti per non sembrare socialisti, e i socialisti immagino per non sembrare di averli rubati al partito. Fatto sta che i coltivatori di garofani tiravano un sospiro di sollievo soltanto in occasione del congresso ed assemblea nazionale. Negli altri giorni tiravano la cinghia perché, visto quanto poi fanno male i garofani, non potevano neppure mangiarseli. Ora è soltanto ora per loro è riapparso il sole dell'avvenire, perché per la gente il garofano, per parafrasare un vecchio titolo di film riguardante, a dire il vero, i papaveri, il garofano tornerà ad essere anche un fiore. Più dure si fanno le cose allorquando si incontra invece con una notizia come quella inclusa fra i risultati di una ricerca sul comportamento sessuale degli americani di recente pubblicazione. Sembrerebbe infatti che i conservatori si abbandonino a pratiche sadomasochistiche tre volte in più degli ultra di sinistra. Ora, pur premettendo doverosamente che lo sa Dio cosa intende un americano per conservatore e per ultra di sinistra, perché si rischia di trovare Clint Eastwood da una parte e la sciura Clinton dall'altra, pur con questa premessa rimane il fatto tutto da spiegare che su 50 persone sadomasochiste 10 siano di sinistra e 40 di destra. E qui, in un caso del genere, uno non sa proprio a che scienza votarsi. Ci vorrebbe una neurobiologia culturale che forse non c'è ancora. Quali caratteri dell'ideologia conservatrice portano a godere della propria e dell'altrui sofferenza? La mancata concessione delle parità sociali come quelle che sono razziale, quella sessuale, la simpatia per Silvestre Stallone, il ritratto di Johnson sul comodino, non lo so. E se la questione fosse rovesciata? Cioè, non potremmo con altrettanta tranquillità affermare che sono i caratteri tipici di una personalità sadomasochistica che indirizzano a scelte politiche reazionarie? Quale delle due impostazioni del problema scegliessimo, comunque, rimane da spiegare anche la minoranza di sinistra, grazie alla cui presenza l'eventuale spiegazione da accettarsi deve essere almeno duplice. Si dovrà infatti partire da ciò che conduce al sadomasochismo, sia quello di destra che quello di sinistra, e solo in un secondo momento trovare qualcosa che renda conto della disparità nella consistenza delle opposte schiere. Così com'è la notizia, pur con tutta la mia buona volontà, non so che farmene. È troppo ampio l'implicito ad essa sotteso e conseguentemente fatico ad attribuirle un significato. Ernst Mach, nella Meccanica nel suo sviluppo storico-critico, un testo classico la cui prima edizione risale al 1883, fa notare come la scrittura cinese per ideogrammi costituisca un caso in cui popoli diversi comprendono uno stesso significato pur leggendo in modo foneticamente diverso. Da ciò Mach addiviene alla considerazione che mentre i nostri bambini leggono sovente cose che non capiscono, i cinesi invece possono leggere solo ciò che comprendono. Io non so se ciò possa poi essere così vero, ma di certo si può vedere la cosa come la sola terapia proponibile alla forsennata glossomania che accompagna la comunicazione pubblica nella società occidentale. E così, d'un botto, giungiamo al supremo paradosso e scopriamo che è l'alfabeto che, prima di che sia, fa sì che proprio non ci si capisca più. Someday I wish upon a star.